Il tema su cui mi concentrerò è abbastanza ostico, sostanzialmente si tratta del privilegio bianco e occidentale. Spiegaci un po' meglio, quale sarà il filo conduttore di questo TEDx e qual è il messaggio che vuoi lasciare a chi viene ad ascoltarti? Ad oggi siamo arrivati alla consapevolezza che badare al clima solo in termini di ambiente è abbastanza riduttivo, di conseguenza non possiamo, diciamo, ragionare per compartimenti stagni, ma dobbiamo avere una visione che abbracci sia la giustizia climatica che la giustizia sociale. E per giustizia sociale si intende appunto renderci conto, in quanto società occidentalizzata, diciamo noi facenti parte dell'Occidente, di avere un privilegio, di avere dei vantaggi nei confronti di popoli che invece sono stati, diciamo, abbandonati dalla storia, ecco, e dai racconti della storia. Quindi mi sembrava un tema fondamentale di cui purtroppo ad oggi almeno io ancora ne sento parlare troppo poco, e quindi cercherò di mettere in correlazione le due cose che magari non sono ovvie, ecco, diciamo, a tutti quanti, per poi dire che alla fine è l'attivismo quello che deve essere il legamento, il legante delle due sfere, perché attraverso l'attivismo poi si riesce effettivamente ad ottenere dei risultati. Puoi farmi un esempio, un episodio della vita reale in cui il privilegio bianco si manifesta? Anche noi di Fridays, no? Noi abbiamo magari una manifestazione, la polizia a fianco perché per ordine pubblico, e magari siamo anche noi stessi, alcune di noi, che non vedono la polizia o qualsiasi guardia dello Stato, diciamo, contro di noi, ma lo vedono per un ordine pubblico generale delle cose, magari. Invece la visione che neri, africani, indigeni, tutte le minoranze etniche comunque che non siano, che non fanno parte della popolazione bianca, purtroppo vedono queste figure come qualcosa di pericoloso, perché gli episodi di uccisione di neri, di persone POC, si direbbe, no? People of color, sono diciamo esponenziali rispetto a crimini contro o uccisioni contro persone bianche da parte della polizia. Quindi questo, per esempio, è una visione delle cose che magari noi non prendiamo in considerazione, quindi noi vediamo la polizia come qualcosa di buono, mentre le minoranze etniche no, in quanto sono discriminate per questo motivo. Altra cosa, per esempio, proprio una cosa che può succedere davvero tutti i giorni è quando magari si chiama per cercare un affitto, per cercare una casa, e appena magari si dice il cognome che non è italiano, la proprietaria di casa ci ripensa e dice ok, ti faccio sapere, e poi sparisce nel nulla. Stessa cosa nel cercare il lavoro. Un'ultima domanda, facendo un passo indietro. Tu sei portavoce di Fridays for Future Italia. Ecco, in questi tempi di guerra e anche di riapertura delle centrali a carbone, di annunci di nuovi gasdotti, qual è l'umore di un attivista per il clima? Ce lo facciamo andare bene e tramite il sostegno e la solidarietà tra noi attivisti e attiviste. Però vediamo che non le cose, almeno a livello appunto energetico, come dicevi anche tu, non stanno andando bene, perché poi ricordiamo, e l'abbiamo detto anche fino adesso, che la transizione ecologica non è soltanto energetica, però sappiamo che praticamente per ridurre le emissioni dobbiamo passare all'energia solare, ad energia eolica, ad energia sostenibile, questo è chiaro. E quindi, insomma, vedere che non solo riaprono centrali a carbone, ma che anche con il gas non stiamo facendo dei passi indietro, questa cosa fa comunque tanta rabbia. Ci porta sicuramente a scendere di più in piazza, anche se con 40 gradi all'ombra è un po' più difficile del solito.